la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori Radio 24, siamo qua in diretta a 16.34, primi 47 secondi, agli studi Radio 24 di Milano, e questo venerdì 4 di aprile del 2014. Avete sentito che la borsa, i mercati finanziari americani aprono al rialzo, malgrado che poi questo dato della disoccupazione americana di oggi, il 6,7%, in realtà sia un dato fortemente deludente. Ci si aspettava una significativa diminuzione, eccetera, eccetera, invece resta inchiodato al 6,7%. E soprattutto è vero che dal pre-crisi, per la prima volta a marzo di quest'anno, negli Stati Uniti si torna a un numero di lavoratori privati superiore a quello del pre-crisi, ma la differenza è che rispetto al pre-crisi ci sono due fattori. Primo, lavoratori a tempo determinato e part-time a bizzeffe, come se piovesse, rispetto al pre-crisi e lavoratori a tempo determinato negli Stati Uniti. Secondo, la partecipazione al mercato del lavoro in America è scesa a livello di fine degli anni 70, e quindi questo significa che il dato della disoccupazione in realtà maschera un po' il fatto che c'è un mucchio di gente scoraggiata che il lavoro non lo cerca. Detto questo, ovviamente il 6,7% degli Stati Uniti rispetto al nostro 13%, quasi un miraggio. Però oggi parliamo di banche, quindi se volete chiamarci 800 24 00 24, darci la vostra impressione rispetto a quello che sta avvenendo in questo inizio d'anno nel nostro paese. Noi abbiamo un indice di settore del sottosettore bancario delle quotate italiano che è effervescente, dall'inizio dell'anno ha fatto più 32% nei primi tre mesi, con banche come il Banco Popolare, MPS, che hanno fatto il 50% in più, e abbiamo un mucchio di aumenti di capitale che sono annunciati, sono stati autorizzati, alcuni sono anche partiti. Questi aumenti di capitale, che a mio giudizio, ma questo è il mio giudizio, sono stati troppo a lungo rinviati con la complicità del regolatore, perché ricordate che banche meno capitalizzate naturalmente hanno meno patrimonio per impieghi, e comunque sono significativi e importanti gli aumenti di capitale che arriveranno, sono cominciati. C'è quello di Monte dei Paschi, di cui parleremo a lungo in questa puntata, che sapete è stato rinviato, doveva partire subito a inizio anno, autorizzato per 3 miliardi di euro, è stato rinviato perché la fondazione in assemblea ha votato contro, ha detto no, io finisco a gambe all'aria, vi dovete dare il tempo rispetto alla ripatrimonializzazione della banca di sistemare le mie pendenze. La fondazione rischiava di venire escussa per la mole dei suoi debiti dalle banche creditrici, e in queste settimane, con grande successo e grande entusiasmo dei media, avete visto, la fondazione è scesa di molto nel capitale, fino a la notizia dell'altro ieri, cioè di ieri, fino a rimanere solo con un 2,5% del capitale della banca di Siena, sindacato con un altro 6,5% di un fondo di investimenti messicano e uno brasiliano, quindi due fondi latinoamericani, con questo 9%, un patto di sindacato di cui attenderemo di conoscere i particolari, ma che in buona sostanza fa rimanere in questi tre soggetti, e quindi anche nella fondazione senese, il diritto di indicare il presidente e l'amministratore delegato della banca di Siena. Come questo si concili col perderne poi davvero il controllo, fate voi, per me, a me non torna molto questa cosa, però certo Antonella Mansi, il presidente della Fondazione Senese, ha portato a casa un grandissimo successo, dal rischio di vedere la Fondazione travolta al successo di vedere rinviato l'aumento del capitale della banca, e oggi a siglare con due fondi, scesa di moltissimo nel capitale della banca, a vedere comunque confermato un diritto a indicare poi i vertici della banca. Ricordo a tutti che il CDA scade nel 2015, e quindi oggi il duo con Profumo presidente resta ad aver poi la responsabilità, vedremo, di dover fare questo aumento di capitale di soli 3 miliardi. Ma bastano 3 miliardi? Ecco, questa è una delle buone domande, perché io ho l'impressione che molti degli aumenti di capitale che partono, ricordo quello di Banca Carige, anche qui commissariata da Banca d'Italia a Genova dopo lunghi anni in cui secondo me bisognava farlo prima, per soci troppo vicini alla politica e con prestiti per amici degli amici, 800 milioni di euro di aumento di capitale. Poi c'è Banca Popolare di Milano, anche qui aumento di capitale sarà di 500 milioni di euro, ed è stato emesso un bond convertibile molto significativo. Anche su BPM bisognava aspettare così a lungo? Leggete sui giornali quello che c'era dentro, io credo di no. Poi c'è un aumento di capitale per 350 milioni della Popolare di Sondrio, ce n'è uno di 400 milioni del credito valtellinese, ma i giornali italiani di solito sono molto trionfanti per il fatto che sono tornati anche gli investitori esteri nel patrimonio, nel capitale delle grandi banche italiane, Unicredit intesa, MPS, grandi fondi come BlackRock. Resta il fatto che noi abbiamo troppo pochi azionisti esteri nelle nostre banche. Pensate che sui 689 banche italiane sono solo 50 quelle che hanno azionisti esteri, solo 50, cioè il 7,2% del totale delle banche italiane. E pensate che, tanto per dirne una, in Francia il 23,8% delle banche hanno azionisti esteri, in Spagna il 31%. La mia impressione è che ci sia molto ottimismo e che però, se andiamo a vedere i numeri, la domanda da farsi è: ma questi aumenti di capitale davvero sono adeguati o servirebbero più risorse per superare poi la vera paura che ha fatto partire questa raffica di aumenti di capitale, cioè l'asset quality review, la vigilanza europea, di cui il primo capitolo è in arrivo entro fine anno, con criteri stringenti. Bisognava aspettare questa paura? Io penso di no, ripeto, ma la domanda diventa se poi questi aumenti di capitale bastano davvero, perché se uno va a vedere i tassi di copertura degli incagli e sofferenze, beh, ancora oggi per molte di queste banche che sono sotto aumento di capitale siamo lontanissimi dai tassi di copertura che erano nel pre-crisi. Faccio esempi e poi vado immediatamente a presentarvi l'ospite. Se andiamo a vedere il Banco Popolare nel 2007 svalutava i crediti deteriorati con una media del 37%, mentre le sofferenze venivano abbattute del 56% in media. Beh, adesso sui crediti deteriorati, rispetto al 37% del pre-crisi, siamo a una copertura del 26%, le sofferenze rispetto al 56% siamo a una copertura del 37,9%. E potrei continuare, perché questi discostamenti, quindi con una copertura che resta troppo bassa rispetto al deterioramento del monte del portafoglio dei crediti, vale oltre che per il Banco Popolare, vale per UbiBanca, vale per BPM, vale un po' per tutte queste banche. Quindi io penso che potrebbero non bastare. Non è questa trasmissione la sede di un'analisi tecnica, però visto che la vicenda MPS tanto ha attirato l'attenzione, cominciamo a parlare un po' del Monte Paschi, cioè di porci il problema se ci ha rimesso, ci ha guadagnato la banca da questo rinvio dell'aumento di capitale che pure ha salvato la fondazione, come interpretare questa nuova governance in cui è la fondazione che continua a essere l'asse centrale per indicare presidente e amministratore delegato, e soprattutto se basteranno i 3 miliardi dell'aumento di capitale che a questo punto tocca fare al direttore generale, al presidente Profumo. Ne parliamo con l'ospite di oggi, un ospite molto noto, perché è Davide Serra, e Davide Serra è il fondatore e amministratore delegato del fondo Algebris, e spesso lo vedete citato sulla stampa italiana internazionale parlando talvolta anche della sua simpatia non celata politica verso il presidente del Consiglio Renzi, ma parlando soprattutto delle banche, dove ha condotto, secondo me, negli anni, in posti come generali e così via, delle battaglie di rinnovamento del capitalismo italiano, di rispetto di regole e criteri di trasparenza internazionale. Grazie di essere con noi, Davide Serra. Grazie Oscar. Allora, cominciamo subito da... Tu condividi l'idea che questi aumenti di capitale siano un po' tardi e un po' inadeguati come mole, oppure no, dici vanno bene? No, dunque, sicuramente, secondo me, il fatto che l'EQR tolga solo la Banca d'Italia come l'unico, persona che può certificare i bilanci, ha fatto sì che tutti debbano guardarsi bene i calcoli. Quindi secondo me fa venire un po' il dubbio che prima fosse un po' troppo collusiva la cosa, o no? Secondo me prima c'è un po' troppo di collusione. Quello che dici soprattutto su Popolare di Milano, secondo me è lampante, cioè il fatto che ci fosse un amministratore delegato che adesso viene accusato di attività quasi criminale, no? Da quanto leggo dalla stampa italiana, vuol dire che chiaramente il fatto che Banca d'Italia gli abbia mandato solo una letterina dicendo: guardate signori, dovete guardare la vostra governance, c'è qualcosa che non quadra. Banca d'Italia dice sempre che non hanno gli strumenti necessari. Adesso io non so in Italia, cioè non sono io un esperto di strumenti, però qualcuno poteva chiamare la magistratura magari prima, ecco. O la Guardia di Finanza. No, anche perché nel frattempo la realtà è che tutti i piccoli e medi imprenditori da quel dì che sono rientrati nei castelletti e si vedono negare gli impieghi, e poi invece i crediti si davano agli amici degli amici. Ecco, esatto. Quindi il vero tema è che perché le banche sono strategiche? Perché è un problema di allocazione del risparmio. Cioè l'Italia ha come dire, uno svantaggio, la classe politica e il debito pubblico. Qual è il vantaggio competitivo che ha l'Italia? L'imprenditoria, il risparmio e il fatto che la gente è disposta a lavorare tanto. Ora, per allocare il risparmio degli italiani ad aziende, ad imprenditori che sappiano fare azienda bene, è cruciale il nesso bancario. Quindi se tu hai delle banche che vengono gestite con logica politica o gli amici degli amici, o ancor peggio tu fai attività criminale, e chiaramente fai un doppio danno al paese, perché uno, fai perdere i soldi ai risparmiatori italiani, e due, finanzi dei delinquenti. Quindi la risoluzione della corporate governance delle banche è cruciale. Questo lo era secondo me in generale. Tu ti ricorderai, 5 anni fa noi avevamo presentato un'istanza dove volevamo un consigliere indipendente per il controllo delle operazioni con parte correlata. Esatto. 5 anni dopo abbiamo scoperto di magia che l'amministratore delegato e il direttore generale sono sotto inchiesta per aver creato gravi danni, a tal punto che la società, spinta da Banca d'Italia, da Consob, dall'ISVAP, ha dovuto adesso fare un'azione di responsabilità. Esatto. E quindi forse bisognava dare qualche segnale, per tempo c'era prima, se un operatore del mercato come te chiedeva cosa che poi abbiamo... Esatto, e soprattutto persone come noi non è che fossero andati solo in assemblea, sono andati anche, come dire, dalle varie autorità competenti ai tempi. Secondo me però, e questo lo vedo in chiave positiva, no, c'è un'accelerazione. Nel momento in cui un amministratore delegato come Mario Greco porta un chief investment officer che viene da Singapore, da Allianz, no? Dove sai che a Singapore 50 anni fa non avevano nulla, avevano di fatto 50.000 persone, malaria, zero risorse, zero acqua, zero terreno. Oggi hanno il GDP più alto al mondo pro capita. Cosa hanno fatto? Hanno messo un dittatore benevolente la pena capitale per la corruzione pubblica. In 20-30 anni hanno preso qualcuno che aveva corruzione, da lì in poi la corruzione a Singapore è sparita. Aspetta un secondo, 60 secondi di informazione stradale e poi torniamo. La versione di Oscar. Eccoci tornati qua in diretta a parlare con Davide Serra, fondatore e amministratore delegato del fondo Algebris, di questa ondata di aumenti di capitale delle banche italiane. Tardi, ma bene che qualcosa si sia mosso, ci stava dicendo Davide Serra. Andiamo un secondo a Siena, che è un po' stato per decenni il punto di una banca in cui la politica era evidentemente in grado di esercitare un ruolo improprio, e poi si è visto come è andato a finire. Detto questo, secondo te è stato un bene rinviare l'aumento di capitale e risolvere, come è stato risolto in queste settimane, il problema della fondazione Antonio Lamanzi, oppure no? Dunque, io vedo dal punto di vista, sono due temi. La banca, innanzitutto, l'Italia fece un errore secondo me. L'iniezione dei 4 miliardi cosiddetti dei Tremonti Bond, perché fu un errore? Perché di fatto un azionista, la fondazione, che ha portato la banca sugli scogli e di fatto in aiuto statale, secondo me lo Stato deve avere il coraggio di quello che ha fatto in altri paesi. Bravo. Quindi dall'Olanda all'Inghilterra, semplicemente di fare l'aumento di capitale, prendere il controllo, mandare la fondazione e tutti i politici locali a casa, effettuare le varie azioni di responsabilità per chi, come nel caso criminale piuttosto che altri crimini oggettivi, e poi a quel punto riprivatizzare pulito. Io lo dissi in campagna elettorale, ma esatto, naturalmente quello che è successo con Lloyds Bank, Royal Bank of Scotland, è successo con ING, è successo con Fortis, come dire, tutta l'Europa. Da noi, dato che allora, non so se ti ricordi, ci fu la famosa campagna elettorale, era in piena campagna elettorale, no? Io mi beccai anche del delinquente dall'allora Bersani e secondo me a questo punto, per alla solita l'italiana, no? Per non prendere decisioni, che nessuno vuole prendersi proprio responsabilità, fu fatto questo accrocchio. Va bene. Ora il vero tema cos'è? È che questa è una banca che ha 4 miliardi di euro di aiuti statali e che devono essere pagati immediatamente. Certo. Perché? Perché l'Italia ha bisogno di quei soldi, no? Alla fine è vero che c'è un rendimento, però alla fine la banca non sta prestando. Il progetto della banca Monte dei Paschi è di diminuire l'attivo, cosa vuol dire? Che toglierà crediti all'economia reale. Quindi non vedo perché lo Stato deve finanziare una banca che toglie del credito alle aziende, no? Siamo scemi, no? Scusa, allora fatelo con i soldi privati. Ora, dopodiché trovo allucinante il fatto che un aumento di capitale che aveva già un consorzio firmato sia stato bloccato per la volontà di un soggetto, la fondazione, che in un paese qualsiasi sarebbe già stato estromesso dal controllo. Anche lì nessuno vuole prendersi il potere di firma. E lì non so se la responsabilità fosse del Ministero del Tesoro, di Banca d'Italia, insomma, non so di chi sia, alla fine tutti hanno i vari responsabilità. Ho fatto una puntata sull'interpretazione datami dal Tesoro di in che cosa consiste la vigilanza che spetta appunto al Tesoro sulle fondazioni bancarie, e loro mi hanno detto non entrare mai nel merito delle operazioni sul capitale delle banche, ma solo in punta di mera legittimità. Io le ho detto che cacchio di vigilanza è allora questa, però vabbè. Esatto, ma comunque tutto legalese, sai che io sono molto contro queste 60.000 leggi civili italiane, perché di fatto così ognuno fa quello che vuole, perché c'è sempre una legge che dice contro l'altra, quindi libero arbitrio. Ora, il vero tema secondo me qui cos'è? Il seguente: uno, noi abbiamo una situazione dove ci sono questi 4 miliardi di Tremonti Bond, la comunità europea ci chiede di ripagarne 3 nei prossimi 2-3 anni, c'è un piano di ripianamento, e secondo me lo Stato dovrebbe chiedere di ripianarli più velocemente, soprattutto perché il progetto della banca è di diminuire il prestito all'attività reale. Secondo, e questo sui miei numeri era anche uscito, ad esempio noi eravamo interessati a comprare le azioni della fondazione intorno ai 12-14 cents, perché secondo me poteva avere un senso, ma poi quando ho visto l'analisi che di fatto la banca centrale sta facendo su Banco Popolare e altre, dove richiede una copertura dei prestiti molto più alta, io adesso ritengo che Monte dei Paschi non abbia bisogno di 3, ma bensì di 6 miliardi di euro di capitale, e infatti è stata trasmessa alla Consob 3-4 giorni fa il fatto che io ho preso una posizione e sono di fatto venduto allo scoperto 1% del capitale della banca, perché ritengo che sia ad un prezzo che non abbia senso rispetto ai prezzi relativi di tutti gli altri assets in Italia. Quindi fondamentalmente, secondo me, è un prezzo altissimo rispetto alle altre banche, Intesa, Unicredit, Banco Popolare, insomma, scegli tu quale. E perché dico questo? Perché semplicemente quando prendo il grado di copertura di sofferenze, incagliati, ristrutturati, insomma tutti i crediti, sì, che non vanno bene, no? Ne fai un calderone, se applichi lo stesso grado di copertura di Unicredit o di Intesa, no? Essendo MPS la terza banca del paese, quindi la paragono alle prime due, no? Certo. Non vado a paragonarla alla Banca Popolare d'Avellino. Ecco, quindi prendo le prime due e mi viene che c'è bisogno di una copertura di 3 miliardi di euro. E poi perché? Perché sai, di fatto Monte dei Paschi ha avuto la crisi, ma non c'è stato nessuno iniezione di capitale, no? Quindi è l'unica banca che ha ricevuto un sacco di aiuti di Stato e non ha aumentato capitale, perché questi 3 miliardi non è un aumento di capitale, ci ripaghiamo lo Stato, quindi alla fine non hai aumentato il buffer, capisci? Certo. Stai semplicemente, ti hanno dato un prestito, lo Stato tu lo ripaghi, bene, ma la banca ha lo stesso capitale di prima, quindi secondo me è allucinante proprio dal senso comune, no? Che una banca che praticamente ha toccato il fondo non debba aumentare capitale quando tutte le banche al mondo hanno aumentato il capitale, è un insulto al buon senso, ecco. E da cui sui miei calcoli, se tu oggi hai metti che tu abbia investito 1000 euro in azione, tu abbia un'azione del Monte dei Paschi che quindi hai 27-28 cents, l'aumento di capitale ti richiede di mettercene altri 28, perché di fatto è uno per uno, sì, anche di più, e sui miei calcoli in realtà devi mettercene il doppio, quindi se hai un euro investito in Monte dei Paschi ce ne dovrai mettere altri due, perché secondo me l'aumento di capitale non dovrebbe essere di 3, ma probabilmente 4-5-6. Sì, 4-5-6. Esatto, poi lì sai, bisogna... io faccio semplicemente il grado di copertura di sofferenze incagliate, ristrutturate, sì, ma come è un'intesa in credito, come prima io lo citavo per le altre banche, esatto, che appartengono a classi dimensionali di raccolta omogenee, quindi, esatto. Esatto. In questo caso noi facciamo questa trasmissione perché secondo me è molto importante, visto che tra qualche settimana si rientrerà, oggi Alessandro Profumo ha detto ne riparleremo dell'aumento di capitale dal 15 maggio in poi, però farsi un conto ha degli effetti del prezzo aumentato per risolvere il problema della fondazione, uno, due, del tasso di copertura a fronte della restituzione del prestito dello Stato oneroso che c'è stato. Queste due osservazioni dovrebbero far riflettere molti, invece di come fa la grande stampa italiana. Io sono molto alieno da questi pifferi e tamburi che vengono sempre all'unisono dicendo tutto a posto, che meraviglia, che straordinaria cosa. I conti non tornano, e secondo me i conti che ha fatto Davide Serra, per quanto per radio possano non risultare molto chiari perché non abbiamo una lavagna luminosa per farvi vedere, sono conti che dovrebbero fare ragionare molto. Innanzitutto io mi appello ai miei colleghi nelle grandi testate, come c'è da questo gruppo e così via. Riflettiamo bene, perché il nostro compito è quello di fare riflettere per evitare altri errori, come troppe volte nel sistema bancario sono stati fatti. Posso chiederti anche un'altra cosa, Davide? Ma La presenza di fondi in queste ultime settimane, che hanno molto rafforzato le loro posizioni in grandi banche e così via, ha una giustificazione tipo A, sono asset molto sottoprezzati e allora per questo possiamo ritornare sull'investimento anche sul mercato secondario entro 2-3-4 mesi, malgrado una redditività che resta negativa o zero di queste banche nel breve periodo? Oppure tu credi che ci sia un fenomeno in corso diverso di scommessa sulla fiducia, l'Italia e così via? Guarda, io che sono a 20 anni da Londra e investo e analizzo banche in tutto il mondo da 20 anni, non ho mai visto così tanto interesse sull'Italia, e questo è coinciso con questa fase di cambiamento, con l'appointment a Premier di Matteo Renzi. Perché, quindi per te questo fenomeno c'è, non è solo una questione di prezzo basso comparato? No, esiste. Perché esiste? E ti dico perché. Perché tu oggi comunque, se vuoi, capisci che l'Italia... Tutti si chiedono, ma com'è possibile che l'Italia abbia aziende, brand, gente vuole lavorare, tecnologie, e però la gente non riesce poi a fare, no? Perché uno va in Spagna... E quindi la scossa di Renzi, speriamo che faccia capire, non solo al mondo, ma qua, che si possa fare, perché si può fare. Questi asset ci sono. Grazie a David Serra, continuate con Radio 24, noi ci sentiamo lunedì.